Una nuova maxi multa record si abbatte da Bruxelles su Microsoft. La Commissione europea ha deciso di sanzionare con 899 milioni l'azienda di Bill Gates per non essersi uniformata alla condanna del marzo 2004, una sentenza che imponeva alla società di rendere accessibili i codici del proprio software per rendere interoperabili i propri prodotti con quelli dei concorrenti. Secondo il commissario europeo alla concorrenza Neelie Kroes, Microsoft ha chiesto prezzi irragionevoli ai concorrenti dal 21 giugno 2006 all'ottobre 2007 per comunicare le informazioni richieste alle aziende interessate, accettando solo il 21 ottobre 2007 di far scendere le royalty a 10.000 euro o allo 0,4% della licenza in questione. Microsoft ha sostenuto la Kroes la prima azienda in 50 anni di storia della concorrenza europea che viene multata per non aver eseguito una decisione dell'antitrust comunitario. La nuova multa di quasi 900 milioni viene perciò inflitta per un periodo di inadempienza dal giugno 2006 all'ottobre 2007 ed è un'ammenda che si aggiunge alla multa di 497 milioni già comminata da Bruxelles quando fu accertato l'abuso di posizione dominante di Microsoft. Enrico Brivio, GR24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles.